Marzo 2003. La poligamia. Non sono un poligamo. La mia cultura, impregnata di cattolicesimo, me lo ha impedito. Ma dal momento che milioni di persone sono poligame, poiché convinte della loro morale, frutto della cultura nella quale sono immersi, la poligamia diventa una questione da non ignorare. Per me sarebbe facile, e ovvio, terminare subito un simile discorso dicendo che la poligamia sia sbagliata. Ho però una personale convinzione che mi porta a credere che, anche chi sbaglia, sia convinto di far bene quanto lo sono io. Per cui, io posso sbagliarmi anche quando sono profondamente convinto di non errare. Lo dimostra il fatto che molti uomini di Dio hanno fatto questo errore. Per obiettività. Quindi sono costretto a valutare se la poligamia sia una pratica sbagliata o giusta. Non è possibile giudicare il comportamento morale di un'azione avvalendosi soltanto della propria morale. Perché la morale cambia secondo la cultura e l'età. Siamo per questo costretti ad appellarci ad una autorità che esuli dai nostri presupposti moralistici, e questa autorità non può essere che una legge. In effetti, ciò che stabilisce una morale è la legge. Senza un divieto, infatti, non vi è trasgressione. Anche la legge non è unica, poiché ogni religioso ha i suoi testi sacri, da cui fa dipendere la sua morale. Come cristiano, trovo il mio codice morale nella parola di Dio. Per questo, valuterò se la poligamia sia giusta o sbagliata, secondo ciò che troverò scritto nella Bibbia. Per forza di cose, il mio giudizio sarà opinabile. La mia conclusione potrà essere ritenuta una semplice interpretazione. Ma non posso, per questo, esimermi dall'esprimere il mio giudizio in merito. E, fuor di dubbio, che nel principio l'Eterno Dio avesse creato Adamo ed Eva, una coppia quindi, alla quale ordinò: siate fruttiferi e moltiplicatevi, e aggiunse: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e saranno una sola carne. L'Eterno Dio non disse nulla di specifico in merito al matrimonio. Non diede nessuna legge a regolare il numero di mogli che un uomo potesse prendere. È vero che l'Eterno si esprime al singolare, che parla di un uomo e di una moglie, ma tale espressione si riferisce ad un principio non tanto quantitativo di mogli che doveva prendere un uomo. In seguito leggiamo che Lamech, il settimo da Adamo e discendente di Caino, si prese due mogli. Il nome di una era Adia, e il nome dell'altra Zille, Genesi 4 e 19. Alcuni fanno notare che il primo poligamo è stato un discendente di colui che l'Eterno aveva cacciato dalla sua presenza, ma l'Eterno Dio non aveva ancora dato nessuna legge in relazione al matrimonio. Quindi nella scrittura non si trova alcun accenno che attesti se Dio ritenesse ciò giusto o sbagliato. Una cosa è certa però. Sbagliato non doveva esserlo perché sta scritto che dove non c'è è legge, non vi è neppure trasgressione. Romani 4 e un quarto. Dopo il diluvio, leggiamo che Abramo, il capostipite della nazione ebraica, aveva, sì, una sola moglie, ma egli, per cercare una progenie promessa da Dio, andò dalla sua serva Agar, dalla quale ebbe un figlio. Il padre della fede era dunque poligamo. Giacobbe, il patriarca, colui che l'Eterno chiamò Israele, ebbe due mogli e due concubine, dalle quali ebbe 12 figli maschi e una femmina. Passarono più di 400 anni. E nel paese d'Egitto i discendenti di Giacobbe, dopo essere diventati una nazione schiava degli egiziani, vengono liberati tramite Mosè. A Mosè l'Eterno Dio diede delle leggi morali, cerimoniali e civili. Tramite le leggi civili, l'Eterno si preoccupa dei rapporti sociali, soprattutto del matrimonio. L'Eterno Dio emana una legge sociale, dove non si trova il benché minimo accenno al divieto del matrimonio poligamo. Anzi, la preoccupazione dell'Eterno era principalmente quella di salvaguardare il debole in un matrimonio poligamo, rappresentato in questo caso dalla donna. Se uno vende la propria figlia per essere serva, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi.

e vi sono eunuchi che si sono fatti eunuchi da se stessi per il regno dei cieli. Chi è in grado di accettarlo, lo accetti. Matteo 19, 3-12. Questa conversazione di Gesù con i giudei mette in evidenza che, originariamente, nel piano di Dio, il ripudio non esisteva. Nel colloquio, Gesù non fa minimamente accenno che originariamente, nel piano di Dio, il matrimonio fosse monogamo. Gesù mette in evidenza che il matrimonio era concepito da Dio come un impegno solenne valevole per tutta la vita, ma non sostiene che l'uomo debba avere una sola moglie. L'affermazione «ma da principio non era così» è riferita al ripudio e non alla poligamia. Il problema per Gesù come per i giudei non esisteva. Dal momento che si stava parlando di matrimonio, il silenzio di Gesù in merito alla poligamia è significativo. Gesù mette in evidenza che l'Eterno Dio diede delle leggi in riferimento al ripudio, ma ciò per la durezza del cuore dell'uomo. L'espressione di Gesù chiarisce che il ripudio era concesso, sì, ma solo a causa della naturale malvagità dell'uomo, perché l'uomo non sa amare la propria moglie. Ma nulla viene detto riguardo alla poligamia, se essa fosse concessa da Dio o se fosse vietata per la malvagità dell'uomo. Questo silenzio di Gesù e della Scrittura deve essere quindi rispettato. La poligamia è dunque lecita. Questo per le seguenti ragioni. 1. Non leggiamo da nessuna parte della Scrittura che la poligamia sia sbagliata o abolita. 2. Gesù evidenzia che l'Eterno Dio originariamente aveva concepito un matrimonio che fosse per tutta la vita. Della poligamia però egli non fa alcun accenno. 3. Molti figli di Dio erano poligami al tempo di Gesù e degli Apostoli, soprattutto fra giudei. Non troviamo però il minimo accenno nei Vangeli e nelle lettere che essi dovessero abbandonare tale situazione. 4. Nel Nuovo Testamento non troviamo nessun comandamento valevole per tutti di avere una sola moglie. 5. Sono profondamente convinto che se avere più mogli fosse stato sbagliato o peccantico testamento, gli apostoli lo avrebbero messo in risalto, molto più di quanto avessero fatto riguardo alla maldicenza e la concupiscenza. L'apostolo Paolo nelle sue lettere ha elencato decine e decine di peccati, ma non ha mai nominato la poligamia come tale. Se gli apostoli hanno condannato severamente l'adulterio, un'infedeltà sessuale nell'ambito del matrimonio, e la fornicazione, una pratica sessuale illecita e costante fuori e dentro il matrimonio, perché erano peccati gravi e unici, fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo, 1 Corinzi 6,18, mi è difficile pensare che il silenzio in merito alla poligamia sia casuale o sia sfuggito. 6. E è vero che leggiamo nelle lettere di Paolo che i presbiteri e i diaconi devono avere una sola moglie. 1 Timoteo 3,2, 3 e 12, Tito 1, 6. La prescrizione apostolica non era diretta contro le seconde nozze, in genere, per cui un simile comandamento mette in evidenza che gli altri uomini normalmente avessero più mogli. Altrimenti il comandamento non avrebbe senso se tutti, normalmente, avessero preso una sola moglie. Per questo, proprio questo comandamento ci informa che, al tempo degli apostoli, fosse consuetudine normale e giusta essere poligami. Dobbiamo rimarcare che la monogamia fosse imposta unicamente a chi aveva compiti di responsabilità di conduzione, perché costoro rappresentavano il rapporto esistente fra Cristo e la Chiesa. Qualcuno potrebbe fare notare che, essendo chiesto agli anziani e ai diaconi, questo si è richiesto anche a tutti i figli di Dio, basando la propria asserzione sul fatto che non esistano due morali, una per il clero e una per i laici. Non è in verità così. Se la poligamia fosse un peccato, Paolo avrebbe richiesto la monogamia a tutti. Avrebbe comandato che tutti avessero una sola moglie, ma, proprio perché non esiste peccaminosità in questa pratica, l'Apostolo, non a tutti, ha ordinato le stesse cose. Non si tratta di santità, quindi, ma di compiti. il ruolo di anziano e di diacono comportano delle scelte che non necessariamente sono valide per tutti i figli di Dio, come l'episodio narrato in Atti 6:4, dove gli apostoli ritennero opportuno per la chiamata specifica avuta da Dio dedicarsi interamente alla preghiera e al ministero della parola, ma senza imporre a tutti tale impegno. 7. Nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 7, Paolo dà degli ordini in relazione al matrimonio. Così inizia le sue direttive. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Ma, a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Anche in questo caso, come in Genesi 2:24, Paolo si riferisce ad un principio. Lo dimostra il fatto che Paolo dice prima che sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Poiché in questo caso il termine uomo ha un significato generale, anche l'espressione ogni uomo ha il significato multiplo. Queste riflessioni non hanno lo scopo di indurre le persone ad essere poligame. Esse sono volte ad invitarci a non ritenere la poligamia un peccato o una cosa da non farsi. Non dobbiamo mai dimenticare ciò che scrisse Giovanni. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è violazione della legge. 1 Giovanni 3:4. Il peccato non è violare un costume, non è trasgredire la morale comune o l'opinione pubblica. Queste azioni saranno al massimo la violazione di una concezione moralistica, che, anche se comune, rimane pur sempre tale. Peccato è, unicamente, fare ciò che Dio abbia, in modo specifico, proibito. E trasgredire la legge di Dio, essendovi, nella legge di Dio, indicazioni precise che la poligamia costituisca una trasgressione ad un ordine di Dio, niente da replicare. Ma, poiché non troviamo proibizioni ad avere più mogli, non vedo errore per chi abbia più mogli. Sono cosciente che una simile conclusione sia veramente un pugno in un occhio o nello stomaco in una cultura abitualmente monogama come la nostra. Sarebbe come condividere ad un musulmano uno studio sulla natura di Dio, concludendo che Dio è trino. Stesso impatto, stesso trauma. Ma non posso, solo per salvaguardarmi dalle altrui reazioni, esimermi dal valutare obiettivamente la parola di Dio. Senza preconcetti, libero da ogni condizionamento culturale. Una volta arrivati a questa conclusione, si tratta di vedere come ciò sia di possibile attuazione. In una nazione dove tutto è strutturato, sia a livello civile che morale, in relazione ad un matrimonio monogamo, non è facile, forse impossibile. Lo scopo della mia ricerca non è quello di sconvolgere le strutture civili, ma piuttosto quello di sensibilizzare la morale dei cristiani che desiderano compiere la volontà di Dio. Le strutture civili italiane impediscono ad un uomo di avere più mogli. Tanto è vero che la poligamia è considerata un reato. Un reato al codice civile non è sempre automaticamente un reato per Dio. Quando ero giovane, alcuni cristiani sono andati in prigione perché leggevano la Bibbia nelle case, cosa da non farsi secondo la legge italiana di allora. Così, se nell'ambiente culturale dei figli di Dio si prendesse coscienza del reale punto di vista divino, riguardo tale pratica non ci si scandalizzerebbe, né si metterebbe al bando chi già fosse o chi diventasse poligamo, sempre che questo non sia un conduttore o diacono. Che se ne dica, la poligamia potrebbe essere un freno risolutore al dilagarsi della prostituzione e dell'adulterio. È vero che gli adulteri esistono, e come, anche nei paesi dove la poligamia è legale, ma ciò non significa nulla. È come dire che le serrature non servono, perché ci sono lo stesso i ladri, o che il codice stradale non serve, perché intanto ugualmente succedono gli incidenti. Inutile negarlo. Inutile nasconderlo. Noi esseri umani abbiamo una natura tale che, più siamo invitati al divieto, più ci troviamo inclini a trasgredire. L'apostolo Paolo lo sapeva molto bene quando scrisse: la legge produce ira, Infatti, dove non chi è legge non vi è neppure trasgressione. Romani 4:15. Una legge invita alla ribellione. Obbligando un uomo ad avere una sola moglie è tentarlo a desiderarne altre. Togliendo però il divieto e offrendo all'uomo alternative nell'ambito matrimoniale, si toglierebbe pure il condizionamento causato dall'imposizione ad avere una sola moglie e lo stimolo della trasgressione. È evidente che l'ultimo aspetto non possa essere portato all'estremo, come del resto ogni verità, perché allora tanto varrebbe eliminare ogni legge. Dio però, non esprimendosi in relazione alla poligamia, sapeva il perché. L'ideale per un figlio di Dio è avere quindi una sola moglie ed essere a questa fedele, cioè non mandarla via. In questo modo egli onora il principio di Dio riguardo al matrimonio. Ma se per varie ragioni, che spesse volte possono risultare oneste e giuste, ad esempio avere una moglie invalida o impazzita, un uomo diventasse poligamo, avendo noi compreso tutto il piano di Dio, acconsentiremmo alla poligamia. In un certo modo risolveremmo tanti problemi in relazione al divorzio, che a mio avviso esistono, proprio perché non approviamo la poligamia. Si può ovviamente anche storcere il naso di fronte a queste riflessioni e conclusioni. Molto probabilmente saremo orgogliosi d'essere monogami e di insegnare che l'uomo debba avere una sola moglie. Ma dovremmo anche, contemporaneamente, rendere ragione di tutti quegli adulteri e tradimenti, di cui il mondo e pure i figli di Dio si macchiano. Generalmente, chi insegna che il divorzio non esiste ha un buon rapporto con la moglie. Chi insegna che i figli sono una benedizione ne ha uno, educato ed obbediente. Chi insegna di porgere l'altra guancia non si è mai trovato un ladro in casa o non ha mai subito delle gravi ingiustizie. Così, chi sia contro la poligamia, generalmente, chi ostinatamente sostenga una tale posizione non vive gli stessi drammi e situazioni di certi uomini. Che il nostro Dio misericordioso abbia pietà di chi sbaglia, di chi preda dei naturali istinti maschili, impedito nel soddisfarli ed incapace, per la sua propria natura personale, di contenerli, commette adulterio e fornicazione. Ma abbia pure pietà anche, come disse Gesù, dei dottori della legge, che caricano gli uomini di pesi difficili da portare e loro non toccano questi pesi neppure con un dito. Luca 11:46. Fino ad ora abbiamo considerato la poligamia, ma vi è un altro aspetto che non può essere ignorato. La poliandria, cioè il matrimonio di una donna con più uomini. Considero questo aspetto perché, quando ho esposto le seguenti riflessioni ad alcune donne, ho avuto delle reazioni, per me, inaspettate. Si sono seriamente arrabbiate, chiedendosi perché Dio non abbia permesso alla donna d'avere più mariti. Esse, poste dinanzi all'evidenza della mancanza di una tale concessione, ritenevano la cosa ingiusta e Dio un maschilista. Un simile approccio al problema rivela più una mancanza di sottomissione della donna ai principi divini che il desiderio di conoscere la volontà di Dio. Innanzitutto dobbiamo togliere un preconcetto che, come una radice velenosa, è più o meno latente nella coscienza di tante donne, anche nelle più pie e devote. Dio non è maschilista, se con questo termine intendiamo che egli ritenga l'uomo superiore alla donna in quanto persona. Per Dio, l'uomo e la donna hanno lo stesso valore come persona fisica e spirituale. Intendendo però con il termine maschilismo riconoscere che all'uomo maschio sia stata attribuita da Dio una posizione di privilegio nella società, allora è vero, Dio è maschilista. Questa è una realtà prestabilita. Le leggi che l'Eterno ha emanato erano a favore dei maschi. Perciò ne consegue che la colpa di questa apparente ingiustizia non si è certamente da addossare all'uomo. L'uomo poteva prendere una moglie e se questa non gli piaceva la poteva mandare via con una lettera di divorzio. Deuteronomio 24. Un uomo ricco che comprava un servo e dava a questo una moglie. Finiti 7 anni di servitù, la moglie e gli eventuali figli nati dal matrimonio appartenevano al padrone. Esodo 21:4. Il padre aveva praticamente piena autorità sulla figlia, potendo quindi disporre se lei potesse sposarsi oppure no. E questo lo troviamo anche al tempo dell'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 7:36. La santa legge di Dio non dava, in sintesi, gli stessi diritti alla donna. Lei non poteva mandare via il marito. Non poteva disporre della vita dei suoi figli. La buona, giusta e santa legge di Dio prevedeva che l'uomo avesse una posizione d'autorità sulla donna, posizione tra l'altro non rimossa con il messaggio del Vangelo. Paolo comanda alla donna: non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. 1 Timoteo 2:12. L'apostolo Paolo non era un maschilista, non riteneva la donna un essere di seconda classe. Egli riconosceva infatti alla donna la sua dignità, ma riconosceva altresì che l'uomo occupasse una posizione diversa. Per quanto ciò che Paolo ha detto sia oggetto di controversia, una cosa è certa e incontestabile: alla donna è richiesta una posizione e un ruolo che non sono invece richiesti all'uomo. All'uomo non è richiesto di essere sottomesso alla donna, né di non usare autorità sulla moglie. Qualsiasi interpretazione noi dessimo alla scrittura, le relazioni sociali della donna e dell'uomo non saranno mai le stesse. Le reazioni furiose di alcune donne in relazione al fatto incontestabile che all'uomo sia dato questo privilegio di essere poligamo sono a questo punto veramente ingiustificate. Se l'Eterno Dio ha dato delle leggi a favore dell'uomo, permettendo la poligamia e non la poliandria, egli sapeva, come sempre, quello che stava facendo. Non voler convalidare questa affermazione significa mettere in dubbio l'onniscienza divina, così pure mettere in discussione la sua autorità. Matrimonio, per quanto se ne dica, significa sessualità. Affinché un matrimonio sia valido, occorrono tre elementi: abbandono del tetto familiare, dichiarazione pubblica, unione sessuale. L'argomento della sessualità non è certamente da sottovalutare, perché la maggioranza delle tensioni e dei divorzi avviene per una mancata armonia sessuale. Come per tutto il regno animale, anche all'uomo maschio è dato, per natura, un forte impulso sessuale, senza il quale, sempre come per il regno animale, non ci sarebbe la propagazione della specie. La sessualità maschile, salvo, ovviamente, per la presenza di disarmonie fisiologiche, inizia dalla pubertà e va oltre i 70 anni. Per questo l'uomo ha una ricerca naturale e costante del rapporto sessuale. Non è così per la donna, salvo ovviamente casi sporadici. Per questa ragione, molte pie e amabili spose si trovano a subire, ad una certa età, le esigenze sessuali del marito. Per molte spose, il letto matrimoniale è un inferno. La sessualità si è trasformata in un pesante dovere, dal quale vorrebbero svincolarsi. Se poi subentrano problemi fisici, queste spose portano allora a una croce non indifferente. E, in questo contesto, che si inserisce la poligamia. Anziché inviperirsi, perché è stato dato all'uomo la possibilità di avere più mogli, le donne dovrebbero essere riconoscenti a Dio, perché se possono essere liberate da qualcosa di disumano, cioè una sessualità sofferta, subita, imposta, e all'uomo, che hanno sposato per amore, è data la possibilità di non commettere adulterio o fornicazione. A mio avviso, nella donna, la gioia della maternità dovrebbe prevalere sulla rivalità. Ho una incommensurata stima per la donna quando penso che essa ha il privilegio, e a volte anche a costo della propria vita, di concepire, di portare in grembo una creatura, di allevarla, per poi donare alla società e al mondo un essere adulto capace di grandi cose come uomo. Mi sento privato di un privilegio immenso. Alla donna non è stata data la poliandria, ma il compito di madre, che supera ogni altra aspettativa. Non sono poligamo e non incoraggio nessuno a diventarlo, ma poiché la parola di Dio per me è l'unica autorità in materia di fede e di condotta, dopo queste valutazioni non mi sento di condannare chi è poligamo. Devo riconoscere la validità delle argomentazioni in favore del matrimonio monogamo e anche le intenzioni tese ad onorare un principio di Dio, ma Come mi sono già espresso, lo scopo delle mie riflessioni ha il solo fine di aiutare i figli di Dio a non ritenere la poligamia un peccato. Ritengo queste riflessioni una sfida per chi si sottomette all'autorità della parola di Dio. Considerato infatti il continuo afflusso di persone straniere, la maggior parte delle quali, abituate culturalmente ad essere poligame, prevedo che la Chiesa e di conseguenza ogni figlio di Dio verrà, e in un tempo non troppo lontano, ad imbattersi in questo argomento. Come ci comporteremo se persone orientali e non messe davanti alla verità unica dell'Evangelo si convertissero e continuassero perché convinte a mantenere la loro originaria cultura poligama? Porteremo avanti un ragionamento moralistico? Grideremo allo scandalo? O avremo lo stesso atteggiamento di misericordia tipico di Dio? Ellero. Il matrimonio è lo stato in cui uomini e le donne possono vivere insieme avendo tra di loro relazioni sessuali con l'approvazione del proprio gruppo sociale. L'adulterio e la fornicazione sono relazioni sessuali che la società tende a non riconoscere come matrimoniali. Questa definizione è necessaria per mostrare che nell'Antico Testamento la poligamia non è sessualmente immorale, poiché costituisce uno stato socialmente riconosciuto, sebbene è generalmente mostrato di essere inopportuno. Dizionario biblico GBU, marzo 2008, pag. 974. Un contributo. La Bibbia di Gerusalemme, quella della CEI, traducono 1 Timoteo 3, 2 non sposato che una sola volta. Le Bibbie di Garofalo, Concordantico Testamento a Ricciotti, Bonave Nuovo Testamento URA Mariani, traducono marito di una sola donna. La Nardoni traduce abbia preso moglie che una volta sola. Seregno 8 ottobre 2009. Caro fratello Ellero, con tanta stima ti scrivo in quanto ti stai veramente impegnando per lo sviluppo del ministero di CRC, sia a livello di doni sia a livello di programmi. Credo che nella storia di CRC di 50 anni nessun altro sia riuscito a fare così tanti programmi, ad eccezione di Enzo e di Daniela per il libro più letto, che hanno anche superato i 1000 programmi, che però trovavano già i testi pronti. Invece te, non soltanto hai registrato oltre 1000 programmi, ma li hai anche ideati, sin dall'inizio. Ci sei di grande esempio nella tua fedeltà e serietà con cui porti avanti questo programma. Sappiamo di tante, tante persone che sono state benedette dai tuoi programmi, non per ultimo per il fatto che i tuoi sono diversi, e perciò richiedono dei ragionamenti da parte dell'ascoltatore. Chi non vuole ragionare non sta beneficiando dei tuoi programmi, per cui ti sei anche beccato delle critiche, infondate dal filone della sana dottrina, per cui CRC si è schierato dalla tua parte. Questo anche per il semplice motivo che CRC è un'associazione adenominale e non fa parte di alcuna chiesa, per cui da noi facciamo anche parlare persone da svariati filoni evangelici. Con eccezioni facciamo parlare quasi tutti, pur mantenendo però un certo equilibrio nella dottrina. Siamo obbligati a fare così in quanto le radio collegate appartengono sia delle chiese strette dei fratelli, sia a quelle larghe del mondo pentecostale barra carismatico. Ma il motivo più ovvio per noi è l'ascoltatore. Mettendoci nei suoi panni non ci possiamo permettere andare in estremo né in una direzione né nell'altra, perché lo urterebbe. L'Apostolo lo vieta parlando della cosiddetta libertà in Cristo in cui tutto mi è lecito, finché non divento d'inciampo per qualcuno e o lo urto. Dobbiamo sempre tenere ben presente che parliamo in pubblico e noi non abbiamo alcun metodo di verifica se siamo d'inciampo per qualche ascoltatore e se lo urtiamo. Mi rendo conto che esistono anche momenti in cui urti sono dovuti per il bene del pross, ma sono piuttosto le eccezioni che la regola. In questi giorni abbiamo dovuto affrontare di nuovo una critica in base ad una miniserie tua in replica all'inizio di settembre, cioè la poligamia. In base alle attente verifiche, ascoltando sia i programmi e consultando il tuo testo, dobbiamo comunicarti che abbiamo dovuto togliere dalla programmazione i tre programmi in questione. Non è possibile scendere nei dettagli, per cui mi limito ad alcune cose, vada bene, non sono soggetto di dibattiti. 1. Nonostante che siamo del tuo stesso parere che la Bibbia non vieta da nessuna parte esplicitamente la poligamia, però non hai tenuto conto del contesto storico né riguardo al Vecchio né riguardo al Nuovo Testamento, per cui sei andato fuori binario biblico con le tue applicazioni / conclusioni. Dio tollera la poligamia e non ritiene giusta. Dio tollera anche certi vizi tuoi, ma non vuol dire che sei nel giusto negli occhi di Dio. Se Dio intervenisse ad ogni peccato, NS, saremmo presto distrutti nel vero senso della parola. 2. Riguardo al contesto storico, possiamo dire che ai tempi del Nuovo Testamento, ad esempio, non era necessario affrontare il problema della poligamia, in quanto nell'impero romano esisteva soltanto la monogamia e soltanto i ricconi si permettevano delle concubine, ma erano sposati ad una donna sola. Perciò fare della poligamia un fatto biblico è un po' troppo azzardato, dal quale CRC si distanzia e ha preso le precauzioni di qui sopra. 3. L'applicazione tua che la poligamia sia consentita da Dio e che risolverebbe tanti problemi non rispecchia nemmeno la realtà d'oggi. Non so se hai fatto caso, quando cerchi CRC sul satellite, trovi innumerevoli canali porno per il pubblico esplicito arabo, e chi ha dei contatti con missionari e gente locale in questi paesi viene a sapere che la prostituzione in quei paesi gode di buona salute. Inoltre non tieni conto del fatto che oggi la poligamia esiste soltanto nei paesi in cui la donna ha un valore molto basso con la quale l'uomo può fare ciò che vuole. E lei è disposta a sottostare a ciò perché, ad esempio, il suo credo glielo impone ad accettare questa situazione. Sii un po' più realista nel pensare che nelle NS culture la poligamia risolverebbe tanti problemi matrimoniali, anzi creerebbe un putiferio, in quanto le donne di oggi non sono disposte a sottostare in questo modo all'uomo e tantomeno condividere un uomo con altre donne. Per non parlare del fatto che, nella maggior parte degli esempi biblici, la poligamia ha causato dei veri drammi. Però allora si trattava di un semplice fattore di sopravvivenza, per cui Dio l'ha tollerato e tenuto conto nell'antica legge. Ed infine, invitare praticamente l'ascoltatore ad andare contro le leggi che vietano la poligamia non è un'applicazione molto felice, in quanto non rispecchia il contesto biblico. Il tuo esempio non calza per niente. 4. Però l'argomento principale per me è come esposto sopra. Mettiti nei panni di un ascoltare non credente che ci ascolta per la prima volta. Che impressione avrà di CRC dopo aver sentito uno di questi tre programmi? Che impressione avrà un ricercatore di verità? Una risposta ti posso già dare. Ad esempio, il mio vicino di casa, persona molto colta, ci avrebbe subito messo nel calderone dei mormoni, in quanto praticano la poligamia, e lo perdi per sempre come ascoltatore. Ellero, tu rappresenti il marchio CRC, che vuole essere il messaggero di Dio sulla terra, se lo vuoi o no, e tutto ciò che dici ricade su CRC. Noi dobbiamo guadagnare l'ascoltantico testamento ore con l'amore di Cristo, e non URTARLO per perderlo per sempre. Noi siamo chiamati ad amare ed edificare il prossimo, sia credente o no. Certo, come detto sopra, ci sono delle situazioni in cui bisogna urtare l'ascoltatore per il suo bene, in modo che prenda una decisione per o contro Cristo. Ma nelle altre situazioni dobbiamo stare molto cauti a farlo e vincere l'ascoltatore con amore. Personalmente ho avuto modo d'apprezzare tanti dei tuoi programmi e sono sicuro che anche gli ascoltatori abbiano beneficiato tanto dei tuoi programmi, in cui hai evidenziato la straordinarietà dell'opera di Cristo per l'umanità e come affrontare la vita così difficile d'oggi, e su quella scia ti incoraggio. Proprio oggi ne abbiamo avuto la conferma per il programma in onda sulla Trinità di Dio, per cui mi devo complimentare con te riguardo alla tua esposizione chiara di un tema così difficile. Prontamente abbiamo avuto i complimenti da parte degli ascoltatori e la richiesta della registrazione insieme al testo da parte di un fratello anziano che insegna in una chiesa a Cosenza, perché da noi in chiesa vi è una grande confusione riguardo all'argomento sulla Trinità. E questo programma ci sarà molto utile per esporre quell'argomento in chiesa. Che il Signore ti dia sempre buone idee per nuovi programmi. Fraterni saluti. Giovanni Vigers, CRC Media. E-mail ricevuta. La poligamia fa molto bene alla salute. La cura. Del dottor Grevati. Mohammed Baha, Iddin Grevati, è un medico musulmano che prescrive la poligamia come rimedio al disordine sessuale ed esistenziale. Anche in Italia, sue dichiarazioni televisive nell'ora di massimo ascolto hanno fatto scalpore. Siamo andati a chiedere spiegazioni di Angela Lano. Figura bizzarra? Di sicuro un personaggio discusso. Mohammed Baha, Iddin Grevati, siriano da quasi 40 anni in Italia, dove lavora tra Lombardia, Liguria e Lazio, è medico, neuropsichiatra e omeopata. Ha mogli e figli. Responsabile di un centro islamico milanese, è tra i fondatori dell'UCOI, l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche, in Italia, nella quale però non riveste alcun ruolo ufficiale. Lo Stato italiano gli nega la cittadinanza. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca, quando, il 21 gennaio scorso, ha rilasciato un'intervista al TG1 in cui promuoveva la legalizzazione della poligamia in Italia. Molte le reazioni sdegnate, anche in seno alla comunità musulmana. Del resto, i casi di poligamia emersi attraverso dichiarazioni, articoli di giornale e servizi televisivi suscitano forte clamore sia tra gli italiani sia tra i musulmani d'Italia. Spiega il dottor Grevati, le società umane sono pervase da un profondo mal di vivere, da una grave sofferenza. Le donne sono quelle che stanno peggio e con loro i figli. Mancano gli uomini di valore, responsabili, seri. Ci sono tanti bambini con i baffi. Maschi capricciosi, prepotenti, guerrafondai, ingiusti, ladri, corrotti, che causano dolore alle famiglie e alla società. Uomini infantili ed egoisti, ma di chi è la responsabilità? Delle donne. Mancano madri che educano con il loro affetto, con la loro accoglienza. L'uomo si forma dalla donna. Diciamo che maschio e femmina sono in disarmonia, in squilibrio. E dallo squilibrio nasce il caos. In tutto il pianeta ci sono guerre, disastri ambientali, ingiustizie, famiglie che si sfasciano e figli che soffrono. La negatività inizia in casa. Se un uomo tratta male la propria moglie, la propria figlia, la propria madre, insomma la donna maltratterà anche tutti gli altri, fuori. Dunque, lei propone come base di partenza per una buona società. Una vita armoniosa in casa, con ruoli ben definiti tra uomo e donna? Certo, diciamo che ci vuole equilibrio. L'origine del denaro viene dal maschio, quella del valore umano dalla donna, che è istintiva, generosa, affettuosa. Questi due poteri, definiamoli economico e morale, devono essere in equilibrio. Ciò non significa che la donna non si debba occupare degli aspetti materiali, che non debba lavorare. Un altro elemento è il dialogo con il creatore, dunque, di natura spirituale. Se non si cura il dialogo con Dio, si perde anche quello con se stessi e con la società. Si spreca tempo ed energia, non si conclude nulla nella vita. Non si sa cosa fare, non si riesce ad amare. Perché? Perché il dialogo spirituale, che dà luce, è stato abbandonato. Che soluzioni intravede? Ripristinare l'equilibrio tra valore morale, umano ed economico. Cambiare i rapporti interpersonali, a partire dalla famiglia. È necessario risanare la famiglia, che rappresenta la cellula del corpo, la sessualità, in senso positivo e vissuta all'interno del matrimonio. La condizione femminile. La donna soffre in tutto il mondo, anche in Italia. Ci sono molte donne maltrattate, non amate, sfruttate meno, in casa, nel lavoro, nel sesso meno. Abbandonate dopo anni di matrimonio o di fidanzamento. Mercificate in TV e ridotte a veline prostitute. La donna orienta l'uomo. E di conseguenza tutta la società. Se in una famiglia la madre soffre, soffrono anche i figli. Pensiamo a tutte le tragedie consumate in famiglia. Madri che ammazzano i figli e poi si suicidano o impazziscono. Figli che uccidono i genitori. Lei è medico. Che rimedi propone? Dare più valore alle donne. Trattarle con amore. Non bisogna farle soffrire. Inoltre, ritengo che la sessualità sana vissuta all'interno del matrimonio rappresenti una terapia. Fate l'amore, non la guerra. Si diceva qualche decennio fa. È vero, chi è affettivamente appagato non è distruttivo. Curo disturbi e devianze anche con la poligamia. La poligamia? Sì. Tutti credono che sia a favore dell'uomo, ma non è così. La poligamia va contro la pornografia imperante TV, internet, programmi trash, contro la prostituzione, la schiavitù sessuale delle donne, i rapporti usa e getta. La poligamia costringe l'uomo ad assumersi la responsabilità della donna con cui vuole avere dei rapporti sessuali e affettivi. La poligamia risolve molti problemi pratici, vedovanza, solitudine, insoddisfazione nel precedente matrimonio, sessualità disordinata. La donna è tutelata perché sa che non verrà usata per poi essere abbandonata. Beh, nei paesi arabo-islamici, dove è praticata la poligamia, non si può certo dire che la condizione femminile sia rose e fiori. In nessun paese arabo-islamico la poligamia è praticata correttamente e in modo umano. Laddove è permessa è perché ci sono uomini ricchi, egoisti. È una poligamia di comodo, patologica, senza amore. Io parlo di qualcosa di diverso, che le stabilisca l'ordine e l'equilibrio, che tuteli la donna dall'irresponsabilità del maschio di oggi, infantile ed egoista. Il sesso è il frutto dell'amore, di un rapporto giornaliero che continua nel tempo. Non è qualcosa da consumare e basta. La donna e l'uomo sono l'una parte dell'altro. Sono una traccia di Dio. Due mondi che si uniscono e si amano. E questa è una bella sfida.